Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Buongiorno Alessandro e buon lunedì. Vai di brutto che oggi si lavora. Yuppie! Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening come, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. Thank you. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Hey, hey. Thanks now. I left my home in Georgia, headed for that Frisco Bay. I had nothing to live for, looked like nothing gonna come my way. Oh, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide. Avremo per 20 anni il tema dell'immigrazione davanti a noi. 20 anni. Chi vi dice che in 20 giorni sarà risolto vi prende in giro. Ora, a me fa piacere che in Vaticano qualcuno continui a dire che bisogna accogliere, bisogna accogliere, bisogna accogliere. Ma un controllo della crescita demografica in Africa si può ipotizzare anche per il bene di quei bambini che altrimenti vengono allevati come polli di allevamento? Quindi... All'Europa, se non ci date una mano a sistemare l'immigrazione, noi smettiamo di pagare i soldi a quei paesi che non prendono i migranti. Molto semplice. Un vero e proprio campo profughi che è nato a Ventimiglia perché l'europeista Macron, ma anche Hollande prima, ci respinge a Ventimiglia i migranti. Prima fanno dei rastrellamenti nelle periferie delle grandi città francesi, li mettono sui pullman e ce li rimandano al confine. Io sinceramente non posso lamentarmi degli immigrati perché non so chi siano, non li frequento, non li vedo, me ne frego del problema degli immigrati. Ma sì, forse Feltri, Vittorio Feltri, ha la soluzione in mano. Dice: io non li frequento, non so chi sono, non lo so come dire, non solo nel suo giro, cioè non me lo vedo a cena con un gambiano, un sierraleonese, un senegalese, e quindi dice: ma chi se ne frega, chi sono? Boh, sono dei volti... E nulla più. Maestrina supponentina. A chi? Caccia miseria, a chi? Cominciamo così, c'è che è lunedì. A chi Vincenzo, a chi? Furmastro. Ah. Sempre a chi? A Feltri forse. Gallocedrone. A Feltri questa. Ah beh, se a Feltri sei un po' gallocedrone, sì ragazzi, a proposito del gallo, forse arriva anche il gallo, Non ho capito niente. Lascia fare. Adesso arriva il gallo, forse. O forse arriva Morata. O forse Aubameyang. Uno di questi, Sto parlando arabo per la nostra Veronica Gentili, signori. Sto parlando arabo per la nostra Veronica Gentili. Veronica? Come stai? No, faccio la gallina se volete. Veronica meno Milan, più Veronica meno Milan. Ricordiamocelo, che se lo fossero dimenticati. Uno slogan praticamente. Chissà, magari li prendiamo in parola, ma chi lo sa. Magari un giorno o l'altro li prenderemo in parola. Esatto, un giorno o l'altro. Cara Veronica, quando vieni convocata dal dottor Milan, parli di politica, di cronaca, del tuo PD. Per carità, ti stiamo tutti quanti a sentire, ma quello che ci interessa veramente è sapere a che ora ti alzi, cosa fai durante il giorno, come e con chi passi le tue serate romantiche. Ciao! Veronica! Bisogna fare una striscia quotidiana, insomma. Sì, esatto. In cui racconto tutto quello che faccio. Tutto quello che fai, esatto. Comunque, signori, sappiate, insieme a Carlo Rienzi, che saluto, presidente del Codacons. Buongiorno, Carlo. Buongiorno, ciao, avvocato. Buongiorno, Carlo. A Savona ci sono 23 gradi in questo momento. Lo sapevi, Veronica? No, non lo sapevo, però ti posso dire che in Puglia fa freddo. In Puglia fa freddo, adesso ora, ci dici freddo tutto. Forse è stato un po' esagerato, ma rispetto ai 40 gradi di questi giorni, ieri fa c'era freddo. Il vento da maglioncino. Vabbè, invece a Castelleone, provincia di Cremona, ci sono 19 gradi, mentre ci ascolta come sempre Chiara da Perth. Lo sai che ci ascolta da Perth? No, non lo sapevo. Eh sì, tutti i giorni, da sempre. 17 gradi, è sole splendente lì in Australia, Anche se è inverno. Ma scusami, quindi lei ti ascolta di notte? No, è giorno, sono avanti loro. Porcaccia la miseria. Sono avanti. Devo sapere che volete. Adesso calcio e geografia, no. Calcio e geografia rimandata. Khartoum, guarda, si ascoltano dal Sudan. Guarda, ma è incredibile questo. 29 gradi e vento caldo dal deserto. È stupendo. Signori, è lunedì. Signori, non ci fermiamo per nulla. Non c'è secondo senza che il Milan non compri qualcuno. E questo è bellissimo. Io sono sempre dubbioso del fatto che stiamo pagando con dei soldi che stiamo stampando in via Sarpi, nota via di Milano, conosciuta come la Chinatown. Quando verrà fuori questa storia, ci verranno a prendere. Cara Veronica, segui secondo la campagna. Me verranno a prendere te. Per no, questioni... ragazzi. Per questioni nominali, capisci? Ma la segui la campagna acquisti del Milan? Ma è uno spettacolo pirotecnico. Ho uno di quei periodi che ogni volta che apro il computer e capisco che tutto quello che succede non mi interessa. Porca miseria, cioè, ma hai visto che acquisti, no? Sto bene. Citamene un paio. Guarda, adesso ti stupirò. Non so chi sia, ma leggo solo la parola Bonucci. Vedi, brava. Vedi che c'è una standing ovation. Sai cos'è? Che sui social non ti puoi difendere, sì, quindi sì. Leggi Bonucci di qua, Bonucci di là. A un certo punto dici, sarà un politico che stanno per fare premio. Ce n'è uno guardare. Anche tu che sei un po' laziale, anche se sei più agnostica. C'è anche Biglia. Abbiamo preso Biglia, no. che si pronuncia così, Biglia. Perdonami, non dite niente a papà, ma io Biglia non l'ho nemmeno Biglia. Mai sentito. Sai come si è presentato ai tifosi del Milan? Ha detto, dai, di qualcosa ai tifosi del Milan, e lui Forza Lazio. Ma come Forza Lazio? Ma che sei matto? Ma allora è un genio. Biglia. Caro avvocato, una bella causa ai proprietari del Milan non l'avete ancora fatta? Dove prendono i 221 milioni spesi finora? Abbiamo fatto un esposto per l'eccesso di spesa. Ma chi l'esposto? Ma ce l'hanno fatti loro? Abbiamo fatto per Forza Vaticano. Abbiamo chiesto la scomunica di quelli che spendono troppi soldi in una situazione di crisi. Sì, e poi ci fanno pagare poi la pay TV per vedere le partite. Carissima. Dai, ma non è vero che avete fatto un esposto. Questa mi stai. Ma abbiamo fatto un esposto, sì. Ma un esposto a chi? E mo non me lo ricordo. Ma è straordinario. Fai talmente tanti esposti al Codacons. Abbiamo fatto l'esposto alla Corte dei Conti. Alla Corte dei Conti. Alla ma che gli frega la Corte dei Conti di quanti soldi? La Guardia di Finanza, perché? Com'è possibile che queste società di calcio, che sono quasi sempre in deficit del bilancio, no? Spendano tutti questi soldi, i debiti, poi fanno le leggi apposta per annullare i debiti e così via, poi piglia e spendono 18 milioni di euro per quel giocatore, 5 milioni di euro per quell'altro. C'è qualche cosa che non torna. Qualche cosa che non torna. Io andrei a controllare in qualche stamperia di via Sarpi, te lo dico così. Dove si segnalano banconote, scherzo, che poi sono suscettibili. Se la trovate, però fatemi sapere dov'è. Esatto, sono suscettibili questi. Dai, apriamo il Parlamento, signori, qua altro. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma non forza, si forza, sa se se ne parlerà per 20 anni, come dice Renzi. Certo che per almeno tutta l'estate non si parlerà che di questa storia degli immigrati e anche di più, e anche di più di quest'estate, degli immigrati, della vaccini. Dei vaccini, mamma mia, adesso sì, adesso ci arriviamo ai vaccini, ma che dobbiamo dire dei vaccini? Che dobbiamo dire? Oh, niente, sui vaccini niente, litigherò un giorno con l'avvocato, litigherò. Vabbè, dei vaccini dai, tra poco ci arriviamo, però lo Ius Soli è stato messo da parte. Allora, una cosa è da chiarire, lo Ius Soli, lo dico in italiano capibile a tutti, tutti, non c'entra una minchia con gli sbarchi. Ecco, credo che questo sia abbastanza chiaro, no? Secondo alcuni... Non c'entra nulla proprio, nulla. No, secondo alcuni non c'è nessun nesso. L'immigrazione dai paesi di origine avviene perché arrivati poi e fatto nascere il bambino, questo acquisisce il diritto la tesi di chi non lo vuole, ma la tesi di chi non è una tesi sbagliata in base a questa legge è una tesi sbagliata. Cioè, se arriva qui una donna una donna e partorisce, quel bambino anche con il nuovo Ius Soli non sarebbe italiano, dopo un certo numero di anni, come tutti, anno d'età, dopo persone che passano qui tutta l'adolescenza, come tutta adesso infatti è giusto. Questo per capire, cioè siamo un paese in cui questa legge non c'entra con gli sbarchi, ma gli sbarchi impediscono di approvare questa legge, no? Ti piace, Veronica, come... Mi sembra una sintesi eccellente, perché l'elemento differente tra gli sbarchi e lo Ius Soli è che gli sbarchi hanno a che fare con una componente di emergenza, di difficoltà di gestione di quello che accade, mentre lo Ius Soli è una legge di diritto e di civiltà in cui uno Stato decide come rapportarsi rispetto a delle persone che sono nate in loco o cresciute in loco e decide che tipo di diritti dare a queste persone. Quindi le due cose non sono legate in alcun modo. Non sono legate. Vengono utilizzate, viene utilizzata in maniera strumentale, dai, ma la politica è questa, ci sta. Ora, la ragione per cui questa legge è saltata per una volta sappiamo essere molto poco colpa del governo Gentiloni, nel senso che il governo Gentiloni si limita a essere di riverbero anche un po' lo specchietto per le allodole di quello che hanno fatto tutti gli altri. Ragazzi, per cui... ma se non ci sono siamo in campagna elettorale, appunto. Cioè, ci rendiamo conto, è saltata per Alfano, questa è la verità. È saltata per quello. Gentiloni, e quindi Gentiloni c'ha tutti intorno persone che fanno i numeri. A un certo punto, se una legge non può essere approvata perché non verrà approvata dal punto di vista numerico, esisti. Sì, ma vi rendete conto? Cioè, non viene approvata, su questa ha ragione l'avvocato, Carlo, hai ragione, cioè non viene approvata, siamo in campagna elettorale. Appunto, cioè, perché, c'entra niente perché l'immigrazione, cioè, siccome adesso tutto quello che può essere in materia di speculazione elettorale, ognuno la vede dal suo punto di vista, e quindi questi dice, se facciamo sta cosa, la Lega poi è bla bla bla, quindi... È vero, Carlo, che non c'entra niente nella sostanza, per i politici non c'entra niente, ma per la gente che li ascolta parlare poi si confondono le idee. Ho capito, ma ti pare normale ti pare normale, cioè, nel senso, siamo un paese in cui si confondono le idee, cioè vi è fatta passare l'idea che se c'è lo Ius Soli ci sono più sbarchi, la gente arriva qui, fa figli, sono italiani. Non è vero! Poi pensate quello che volete sullo Ius Soli, ma almeno un pizzico di verità andrà ristabilita, no? No, ma questa è una delle cose fondamentali che non è stata fatta in questo periodo. Cioè, è stato fatto tutto un mischione, per cui lo Ius Soli è stata vista come una cosa... Certo. Poi è sempre un problema di solleticare o no l'opinione pubblica. Ma in quale periodo è stata fatta corretta informazione dai politici? Scusate. Vabbè, ma lo so, il politico tira un po' acqua al suo mulino, però sul quello cose. Che i politici dicono bisognerebbe sempre dire, allora loro anche la stampa, loro dicono così, ma è esatto. Esatto contrario. Andiamo a vedere come stanno le cose, no? Bisognerebbe andare dentro. Però vedi la gente che scrive, però viene fatta in periodo di sbarchi, è il caso di farlo, la gente è già incavolata, ecco. E allora cioè, è incavolata. È incavolata, allora non facciamo. Non facciamo, che ne so, le leggi sui reati fiscali, non facciamo le leggi, che ne so, Rienzi, sui vaccini, perché la gente è incavolata per gli sbarchi, allora non facciamo no? Bisogna vedere appunto quando le leggi si fanno per motivi diversi da quelli che si dicono. Per esempio la legge sui vaccini, dobbiamo dire, abbiamo in Italia un legame strettissimo tra quelli che fanno tutte queste leggi sui vaccini Big Pharma, e le case farmaceutiche. Big Pharma, dai, Big Pharma, sì. No, ma ho capito, ma avvocato, ma l'abbiamo detto, ma intanto, a parte che ci hanno riso veramente dietro in tutto il mondo, cioè abbiamo tre nazionali della pallanuoto con il morbillo, no? Per carità, cioè, mi spiace ma per non loro. C'entra proprio nulla, come ma non fatto degli come non c'entra proprio nulla. State a fare il casino pure sul morbillo. Cioè, che c'entra questo col costringere? Noi abbiamo una tragedia in atto di milioni di mamme e di padri che vanno alla ASL e non sanno nemmeno cosa fargli all'ASL, gli dicono ecco qua 12 vaccini, 13, 14, qual è il problema 10. Della disinformazione? È un problema di una legge che è fatta per obbedire agli interessi delle case farmaceutiche. Abbiamo una legge, solo in Italia c'è quest'obbligo, solo in Italia c'è quest'obbligo. Forse perché sono abbassati, sono tre. Si sono abbassati forse i livelli di ma niente, di copertura. Infatti, i livelli sono sempre il 95%. Lasciami dire, scusa, abbiamo un istituto superiore di sanità che è diretto da uno che era commissario dell'istituto superiore di sanità e faceva le cose con i finanziamenti facciamo le cose per i Big Pharma, però nessuno riesce a rispondere al fatto che se le persone non fossero vaccinate e si ammalassero Big Pharma guadagnerebbe di più di più Big Pharma a curare non i malati è vero, però non è vero. I vaccini si devono fare perché sono una cosa utile, ma non questa vaccinazione a gregge di massa, 12 vaccini mischiando e aumentando i soldi. Veronica, tu stai a posto, Veronica. Vedi il silenzio con i vaccini. Assoluto. No, sei io vaccinata. Penso che la gestione è stata. Sì, dovrei essere a posto. Vai a fare un controllino. Non è mai troppo, quindi lo rifarò. Comunque, però... per i consigli, abbiamo da oggi un numero di telefono a pagamento. Per ecco quello sì, a pagamento. Lo dico pagamento, sì. Ecco perché, quello sì. Perché contro le fake news del ministero. Va bene. A pagamento, no, esatto, Big Pharma. A pagamento perché va sostenuto le battaglie che sono tantissime che stiamo facendo su questo campo. Certo. Posso dire il numero? Sì. 893-0398. Aspetta che me lo segno. 893-0398. Dopo lo diciamo, migliaia di telefonate a pagamento. Dai, Veronica, dimmi poco. Il problema è che le cose vengono sempre fatte male, perché sui vaccini siamo d'accordo, almeno io sono assolutamente d'accordo su tutto. Ritengo anche che possa esserci, Rienzi lo saprà meglio di noi, ma sicuramente alcune malattie secondo me possono essere state lasciate un po' da parte e ci possono essere dei ritorni. Ritengo che sia un fatto di estrema civiltà rispetto a chi è più in difficoltà e quindi ha delle situazioni di salute più precarie, cioè anche una scelta di comunità. Ma perché vuol dire ritorni? Cioè, voglio dire, ritorni, uno che fa un vaccino lo fa e lo vende, no, cioè non è no, che no, ritorni dire... di malattie, focolai di malattie che magari sono state meno vaccinate. Sì. Però detto questo, penso che come è stata fatta la legge in una maniera un po' convulsa, scomposta, e anche lì è diventata un manifesto elettorale. Ci ricordiamo la frase di Renzi, i vaccini devono essere la loro banca etruria, parlando dei 5 Stelle. Alla fine è stata fatta un po' male, nel senso che anche parlando con coppie di genitori vaccinati. Perché non si capisce? Sono un po' troppi ma 12 vaccini molto ristretta, sono scese a 10, vabbè, ma insomma sono comunque tanti. Adesso sono scese a 10, meno male, sono sempre tanti, non lo ammetto, con il mix di metalli pesanti che ci sono nei vaccini. Ma insomma, volete rendere conto dell'assurdo? L'unico paese al mondo con tutti questi vaccini, l'unico paese, sembriamo un paese in via di sviluppo dove bisogna vaccinare tutti, se no moriamo. Però dobbiamo, è una balla clamorosa. Aspetta un attimo che dobbiamo andare al traffico, lì non c'è un vaccino, aspetta, il traffico. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Certo che siamo messi veramente molto male. Da una parte c'è il finto buonismo ONG di sinistra e dall'altra adesso ci si mette anche alla CEI. Non basta aiutarli a casa loro. Tutti quanti qua, ma questi vescovi, ma si rendono conto? I danni degli incendi non è colpa di chi li spegne, se li spegne velocemente o se li spegne meno velocemente, ma è colpa di quei bastardi che li accendono. Tu Milan sei vaccinato contro morbillo, parotite, rosolia, eh? Metti su internet, metti su Facebook, voglio vedere il vaccino, il certificato vaccinale. Lasciamo i nostri vigili del fuoco a fare le collette senza mezzi e senza strumenti, mentre gli animali muoiono, mentre le fiamme entrano nelle case e Vincenzo De Luca sta a distribuire fritture di pesce e a cercare scranni per i figli. Noi ci incazziamo, e come? E non può usare un linguaggio più appropriato, deputato, per favore. Presidente, per favore. Presidente, mi scusi. Oh, ma che è che tocca? Cara Veronica, che è che tocca sto... il nostro Vincenzino, L'ho capito, infatti deve essere stato uno dei 5 stelle, sì, Tofalo dei 5 stelle, infatti subito appena ha nominato De Luca subito ripreso dalla Boldrini, la Boldrini si è fatta su immediatamente, ha detto no, Vincenzino non si tocca, la conduzione 4.0 di Vincenzo De Luca ormai è quasi ultimata, ma io non vorrei che De Luca non si occupasse degli incendi perché deve condurre lì da te, ma infatti siamo pronti, ormai è tutto a posto, da settembre condurrà 4.0 e... ne sono grato. Grazie, caro presidente, stiamo mettendo a posto lo stipendio. Ma tu non lo vuoi fare il governatore della Campania invece in alternativa? No, ma che c'entra? Ormai il contratto è ultimato, sta quasi per firmare. Siamo... 13.000 euro netti al mese. Ecco, questa è la cifra. Mi sembra perfetto. Pulita. Allora, siamo con Carlo Rienzi, presidente del Codacons, e con Veronica Gentili, la nostra Veronica Gentili. Allora, e la questione degli immigrati l'abbiamo risolta. Mamma mia, però c'è. È risolta proprio noi stamattina. Sono rimasti gli incendi. Gli incendi li abbiamo. Oggi ho letto questo titolo su Libero. Dov'è che è? Sugli incendi a Capalbio. Cavati, i VIP. Arrostiti i sederini dei VIP. A Capalbio. Ma come sono contento? Non ci sono più i VIP a Capalbio. Ma come sono contento, avvocato? È un incendio. Sì, perché se sono molto VIP lì si aggredono proprio, insomma. La triste storia di Capalbio, tutte le estati succede qualcosa. Ma poi esatto, l'anno scorso non volevano gli immigrati. Quest'anno gli sono arrivati addirittura gli incendi. Ma sentiamo da una che è una radical chic vera, che frequenta Capalbio, tu che sai bene, Veronica, tu che sei una radical chic. Vabbè, ma dai, si sa, sei di sinistra. Io però non frequento Capalbio. Sei di sinistra col pareo degli altri, dai, si sa. Allora, intanto questo assioma tra la sinistra e il pareo, già, no? No, dico, fai quella di sinistra col pareo degli col altri. Col pareo perché... degli altri, nel senso che poi mi metto il pareo, ma... No. Vabbè, ma dai, stai eludendo il tema. Mattina presto, sciocchina, sì. È una. Capalbio, che gente c'è a Capalbio? Ma non più quella di una volta. Purtroppo non ci vado, però se tu vuoi, io sotto mentite all'ultima spiaggia di Capalbio. Io che sto anche all'ultima spiaggia in questo periodo, posso andare lì e fare una ricerca antropologica in più. Chiaramente posso camuffarmi tra loro, essendo radical chic di sinistra col pareo degli altri. No, io ci sono passato, ci stanno solo antichi romani. politici, ma pochi, quelli di una volta. Poi la nuova Ciccio mi sa che è finita. I nuovi sono andati da un'altra parte, sì. I nuovi sono andati più a nord, in Toscana alta. Ah, sì, sono, i sì, wannabe intellettuali mi sa che non stanno più a Cavalbia. Basta. No, non stanno più, no, infatti nemmeno io ci vado più tanto. Cioè l'ultima spiaggia di Capalbio non è più il luogo dei radical chic. No, adesso i bagni si fanno nelle fontane, anche le suore fanno il bagno nelle fontane in Roma, visto? Avete visto le foto? Le suore. A proposito di Roma, ma che dobbiamo fare al macchinista adesso, con tutto il rispetto, che ha trascinato per 135 metri questa povera signora? Deve essere chiusa l'ATAC. Noi oggi abbiamo chiesto di incriminare non solo il macchinista, perché non è possibile che esce in circolazione un treno in cui non funzionano i sistemi di emergenza, eccetera, eccetera. Questo è effettivamente vero. Ma chi l'autorizza questo? È assolutamente vero. Questo è effettivamente vero. Cioè il macchinista può aver sbaglia, va bene, sia punito anche in modo esemplare, ma siano puniti ancora di più quelli che hanno consentito lo sbaglio. Ma tu Veronica, che frequenti Milano un po', e sì, chissà, poi magari la frequenterà un po' di più, e Roma tutti i giorni, ma è davvero un disastro. Chi non può dire? Ma è davvero un disastro dal punto di vista del trasporto pubblico. No, la situazione non è ottimale. Ma la metropolitana non è proprio ottimale, è uno schifo. Ma appunto, ma dillo, ma mica ti, mica ti tolgo la cittadinanza di Roma se devi dire uno schifo. L'ultima volta, sì, infatti, guarda, cerchiamo comunque di parlare sempre con rispetto della capitale. Ecco, io l'ultima volta vedi, che ho preso la metropolitana facevo la quinta elementare. Ah, la radical chic de Noantri che gira in macchina, cioè, hai capito? Perciò poi non ci circola a Roma. Hai capito? È una di quelle che ha votato sicuramente il candidato sindaco. Corienzi, che voleva disintegrare il traffico e le macchine. Vedi? Chiaro, ve l'ho detto già che ho votato Rienzi. Sì, certo. Allora, ho capito. Volevo cambiare stile di vita, cercavo, capito, di farmi redimere, quindi ho detto se cambiamo la situazione del traffico io non prendo più la macchina. Scusa, perché non prendi la macchina? Dimmi, abbiamo 30 secondi, spiegaci perché non ti vuoi mischiare col popolo. Col popolo? No, io adoro mischiarmi col popolo in altre situazioni. Io posso andare a cena con tutti gli amici della Gambiani al posto di Feltri, però non prendo, te lo dico, volevo dirtelo dalla premessa. Viva però i Gambiani! No, vado volentieri a cena con tutti, Nuova Guinea, Eritrea, Etiopia, vado a cena molto volentieri, anzi molto più volentieri che con tanti altri. Non ci crediamo. No, io ci credo, no, è così, no, è così. È amica dei popoli, queste cose qua. Sì, purtroppo sì, queste caratteristiche ce le ho davvero. È così. Però sulla macchina, ora, al di là della pigrizia, diciamo che a Roma prendere la metropolitana è un po' un'avventura, e quindi a seconda dei tragitti che fai, a meno che realmente per lavoro non devi la lascia al popolo, non è come Milano, la lascia al popolo. Temo però che Milano uno dovesse frequentarla di più è costretto a prenderla. Devo chiudere, ma sai che arriva anche Morata forse? Davvero? Ma sai da dove? Se lo sai, Morata. Vabbè, dai, lasciamo stare. Non ti voglio mettere in difficoltà. Arriva Morata, forse. Morata dal Real Madrid. Quella miseria. Per la Salernitana arriva qualcosa di buono. La Salernitana. Vediamo al bicettino di Luca se mette un po' di soldi nella squadra. Vediamo un po', esatto. Vedremo un po'. La Salernitana alla prossima puntata. Dai, vi devo salutare. Di Salerno? Sì. È andata a Salerno. Adoro Salerno. Ragazzi, che paraculaggine. Vabbè, dai, ci vediamo alla prossima. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qua, stavo finendo di rispondere a un ascoltatore via WhatsApp che mi ha detto di organizzare un'altra marcia pro migranti insieme ai miei amici comunisti. Un'altra, dovrei organizzare la prima, poi organizzare l'altra. Va bene, insomma, ho risposto anche a lui al 349-238-6666, numero per i vostri messaggi WhatsApp. E che dire, siamo qui, è lunedì, siamo pronti a una nuova settimana di 24 mattino, la penultima prima delle vacanze. E caro Peter Bescapè in regia, caro Lorenzo Nespoli in redazione, siamo pronti a capire che cosa ci offrono i giornali nella rassegna stampa di 24 bravi, mattino. Bravi, continuate così. Bravi. noi ce la mettiamo tutta a continuare così. Questo lunedì 17 luglio, intanto i titoli, le aperture dei quotidiani. Casa, rimborsi, scontrini, le insidie del modello 730, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Entro lunedì prossimo l'invio della dichiarazione fai da te, si punta a 2,5 milioni di spedizioni. Mi raccomando, siete tutti pronti, oggi ci sono tutti i consigli sul Sole 24 Ore, poi lo vedremo con Mauro Meazza. Ma l'apertura di tutti i quotidiani praticamente è il disegno di legge sullo Ius Soli, che finisce di fatto su un binario morto, almeno per l'estate, poi si vedrà. Ius Soli, lo stop di Gentiloni, è l'apertura del Corriere della Sera, mentre per Repubblica Ius Soli, la retromarcia del governo, al sud barricate contro i migranti. Il Messaggero, lo Ius Soli sul binario morto. Il Giornale, Ius Soli, resa del PD. La Stampa, Ius Soli, lo stop di Gentiloni, mancano le condizioni, la legge rischia di saltare. Per il Fatto Quotidiano, naufraga pure lo Ius Soli. Libero, invece, su questo tema, al titolo alla Libero. Renzi sta sulle balle, Gentiloni fa tenerezza. Queste le aperture dei vari quotidiani, poi vediamo la vicenda dello Ius Soli. Io voglio partire come cronaca dalla vicenda invece che ha coinvolto l'ATAC e che coinvolge questa signora che è stata trascinata, le immagini sono impietose, terribili, è stata trascinata per 135 metri da una metropolitana di Roma. E ora viene fuori che ci sono 11 video che inguaiano l'autista della metro. 11 filmati accusano il macchinista. Questo è il titolo del Messaggero e del Corriere della Sera. Leggo dal Messaggero a pagina 9, Valentina Errante, Adelaide Pierucci. Quegli 11 video che inguaiano l'autista della metro. 11 filmati che riprendono da tutte le angolazioni l'incidente della metro di Roma, quegli interminabili secondi durante i quali Natalia Garkovic è stata trascinata sulla banchina per 110 metri e poi all'interno del tunnel per altri 25 metri. Non solo, dai fotogrammi consegnati in procura che inquadrano il macchinista anche dopo la partenza emergerebbero altri elementi sulla condotta distratta, diciamo così, di Gianluca Tonelli, che immortalato mentre mangia in cabina poco prima di chiudere le porte, continuerebbe anche durante il viaggio ad avere un atteggiamento evidentemente non consono. L'uomo, ora indagato per lesioni colpose, ha scelto di fermarsi alla stazione successiva nonostante i passeggeri avessero attivato l'allarme. ATAC ha disposto una sospensione cautelare per il macchinista, ma è probabile che il procedimento disciplinare resti sospeso in attesa dell'esito dell'inchiesta coordinata dall'aggiunto Nunzia Delia e dal PM Maria Sabrina Calabretta. Questo succede e rischia il licenziamento, questo raccontano tutti i giornali, anche il Corriere della Sera ora dice ATAC verifiche per 1500 dipendenti. Certo, fa stupore vedere le foto di conducenti d'autobus che mentre guidano tengono il telefonino all'orecchio, altri conducenti che hanno l'iPad, magari l'iPad davanti al volante e il telefonino in un'altra mano. Questo lo si vede in una foto immortalata a pagina 23 del Corriere della Sera. Sono foto che in genere gli stessi utenti di Roma spediscono alla twittano alla InfoAtac, @InfoAtac è il servizio Twitter. ATAC ringrazia, gira a chi di dovere, cioè al consiglio di disciplina che si occupa dei servizi di controllo interni, ma ed è giustissimo, cari utenti, se vedete un autista che guida, che magari sta al telefonino, non si rende conto che mette a repentaglio la sicurezza, non so, di tutti quelli a bordo, dei pedoni, degli altri. Segnalatelo, fategli una foto, mandatelo all'azienda, non è mica fare la spia, anzi, è fare un servizio pubblico e favorire la sicurezza di tutti, ma che ci mancherebbe. E quindi continuate a farlo, ma assolutamente, tutta la vita. In tutto questo parliamo di soldi. Sergio Rizzo su Repubblica racconta i costi della burocrazia e parla e scrive più che altro a pagina 13 che i dirigenti di Stato italiani sono i più pagati d'Occidente. I più pagati d'Occidente, questo lo certificano, lo si certifica su Repubblica, lo certifica l'OCSE. L'ultima rilevazione dell'OCSE sulle retribuzioni dei dirigenti pubblici dice quanto la trasparenza sia preziosa e per alcuni versi anche dolorosa. Grazie a lei sappiamo che i mandarini italiani sono i più pagati del mondo sviluppato, con la sola esclusione dell'Australia. Affermare tuttavia che con il tetto agli stipendi dei funzionari pubblici, fissato 3 anni fa in 240.000 euro lordi, non sia cambiato nulla sarebbe ingeneroso. Qualche busta paga scandalosa e immeritata è stata per fortuna ridimensionata, ma è sempre la media che continua a fregarci, la media, e i confronti parlano chiaro. La retribuzione media delle nostre figure burocratiche apicali è scesa tra il 2011 e il 2015 da 339.249 a 212.132 euro lordi. Calo non affatto trascurabile, meno 37,4%. Nonostante però questa sforbiciata, siamo ancora ben al di sopra della media dei paesi sviluppati che aderiscono all'OCSE, fissata in 160.627 dollari, cioè 132.315 euro, la metà, no, non proprio la metà, noi siamo a 212.132.000. Questa è la media. Decisamente meglio è andata ai dirigenti di prima fascia, quelli immediatamente al di sotto del massimo livello apicale. Dopo l'introduzione del famoso tetto, le loro retribuzioni medie sono addirittura aumentate, seppur di poco. L'incremento dai 197.962 euro lordi del 2011 è salito ai 199.330 euro del 2015, un aumento dello 0,7%, che sale dell'1,5% con la metodologia di calcolo OCSE, che tiene conto anche dei contributi previdenziali dell'orario effettivo di lavoro. Il punto di partenza è la trasparenza, ma anche questo stipendio, che è, rispetto ai paesi OCSE dei dirigenti apicali, molto più alto in Italia. In tutto questo, a proposito di sicurezza, visto che tra poco ne parleremo, in termini di immigrazione soprattutto, a Trieste, questo è un caso che emerge sul Corriere della Sera, pagina 11, sono partite le ronde del comune con i soldi di Serracchiani. Il comune di Trieste è in mano al centrodestra con il neo sindaco di Piazza, Roberto Di Piazza, e suscitano un po' di polemica le 80 sentinelle volontarie formate con un corso di 20 ore, quindi un corso anche un po', come dire, lampo, diciamo così, 20 ore, che controllano il territorio. Sono le sentinelle di Trieste, come le definisce Franco Stefanoni a pagina 11 del Corriere della Sera, tutte in pettorina, berretto, telefono pronto all'uso, di giorno, di notte, una specie di vigilantes in versione civile. Sono previste fino a 80 persone, divise in gruppi di 2 o 3, che inizieranno forse nei prossimi giorni per operare a regime nel 2018. Non è un'iniziativa di partito, ma una scelta istituzionale del comune di Trieste. Sentinelle che scandaglieranno la città saranno scelte con apposito bando, in base a età, assenza di precedenti legati alla legge Mancino, quella contro le violenze e discriminazioni razziali. Meglio se hanno trascorso in polizia o carabinieri, saranno formate appunto con 20 ore di corso e sono una risposta anche alla mancanza di forze dell'ordine e alla richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Ne parla il Corriere della Sera, con le annesse, come accade in questi casi, polemiche che non mancano. Mentre, signori, è tornato, ve lo ricordate, il furbetto del quartierino, definizione che si è autodato di fatto, è tornato Stefano Ricucci. È tornato da dove? È tornato dal carcere. Come racconta Paolo Berizzi, che lo intervista, arrestato di nuovo un anno fa, l'ex furbetto del quartierino è tornato libero senza clamore. C'è un'intervista, lo stesso Ricucci dice, l'ultima intervista che avevo fatto risaliva a 10 anni fa, sempre a Repubblica. Ora Ricucci dice addio jet set, dopo mesi di carcere con Marra e Romeo porto mamma al mare. È un Ricucci che si dice rinnovato, beh, parla della sua esperienza in carcere, dice sono sempre stato trattato bene, ero in una ala del carcere di Rebibbia dove sono arrivati anche Alfredo Romeo, del caso Consip, Raffaele Marra, ex bacioestro di Virginia Raggi, sindaco di Roma, Raffaele Pizza, faccendiere, fratello dell'ex sottosegretario Pizza. È un reparto fatto di 4 celle, i detenuti erano questi, gente che effettivamente è stata molto sui giornali, diciamo vengono chiamati i detenuti mediatici. E Ricucci dice basta lussi, basta vita mondana, basta fidanzate da copertina in cerca di visibilità, ho chiuso con quella roba lì, ora sto nel mio con le uniche due persone che mi sono rimaste, che contano nella mia vita, mia madre e mio figlio, loro mi sono sempre stati vicini, tutto il resto viene, va e passa e ti lascia poco o niente. E racconta Ricucci. Sono venuti anche dei parlamentari a trovarmi, Roberto Giachetti, Michel Gotor, hanno fatto il giro del reparto e si sono fermati a chiacchierare con me. Dice però Ricucci ora basta con tutte le vicende di politica, anche se la politica mi ha sempre appassionato, sono uno che vuol capire le cose. Dalla politica alla fine dipende il tuo quotidiano, i servizi, il lavoro, l'economia, la società, decide tutto la politica. E però è un Ricucci che dice ora ho cambiato vita. Trovate l'intervista su Repubblica. Mentre questo è l'articolo che mi fa più inquietare, più che bisognerebbe dire sare, l'articolo da mani sul volante, l'articolo che dovrebbe fare meditare tutti quanti, sono due pagine della Stampa in cui si racconta il ritorno dell'eroina. Low cost e dosi gratis, ritorna l'incubo eroina. L'Osservatorio Europeo delle Droghe dice 205.000 italiani l'hanno usata nel 2015, è soprattutto allarme tra i minorenni, pensate che ai giovanissimi viene data e viene venduta a 5 euro al grammo, ovviamente per farli diventare dipendenti. Racconta la Stampa, sembrava relegato al passato degli anni 70 e 80, invece l'incubo eroina è tornato a un prezzo low cost, 5 euro al grammo, ed è già un flagello. 205.000 sono gli italiani che l'hanno usata, o meglio le persone che in Italia l'hanno usata, secondo l'Osservatorio Europeo delle Droghe. Un numero prudenziale da incrociare ad esempio con i dati del Servizio Sanitario Lombardo, che seguirebbe 54.000 persone per abuso di eroina. Dopo la demonizzazione dei tossici, la paura dell'AIDS, ora torna la roba, come viene definita da sempre, negli anni Ottanta. E oggi l'eroina non è più presa da sola, ma in mix, che include cocaina, alcol o bombe chimiche varie, non sempre considerate illegali. È il cosiddetto poliabuso, che colpisce a tutte le età, dagli adolescenti agli over 50, giovani senza lavoro e professionisti. A ciascuno la sua droga, per i disperati l'eroina a 5 euro, per i professionisti in carriera droga o anfetamine varie. L'articolo inquietante, l'inchiesta di due pagine, soprattutto gli outlet, così vengono definiti, a Milano, alla stazione Rogoredo, al Parco delle Groane, trasformando la metropoli nella capitale italiana del fenomeno. Eccola qui, la storia low cost e dosi gratis, ritorna l'incubo eroina. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il belli capelli dell'informazione. Allora, le 7:33 minuti, siamo ancora in diretta qui a 24 mattino. Signori, stiamo cercando di capire cosa ci propongono i giornali come temi. Sicuramente molti, quasi tutti i quotidiani, aprono con la vicenda dello Ius Soli, disegno di legge che di fatto, visto che non ci sono i numeri, preso atto della situazione, il premier Paolo Gentiloni dice va rinviato a dopo l'estate. In questo momento, questo è il comunicato, la dichiarazione di Gentiloni, tenendo conto delle scadenze non rinviabili e delle difficoltà emerse in alcuni settori della maggioranza, non ritengo ci siano le condizioni per approvare il DDL prima della pausa estiva. Si tratta comunque di una legge giusta, l'impegno mio personale del governo per approvarla in autunno rimane. Sì, l'impegno rimane, ma molti fanno capire che probabilmente un po' può essere anche a rischio di una pietra tombale su questa legge che tanto ha fatto discutere e che di fatto ora non c'è, anche perché i centristi, a cominciare da Alfano, erano contrari, sono contrari, e quindi i numeri non ci sono. Il rischio di una crisi parlamentare c'era per il premier Gentiloni, che dunque dice non si farà quest'estate. E ora ovviamente la polemica è servita su tutti i quotidiani. Intanto sulla Stampa pagina 5 Carlo Bertini racconta la telefonata prima dell'annuncio. Matteo, nel paese c'è un brutto clima. Questo Paolo Gentiloni ha detto a Renzi. Racconta Carlo Bertini, pagina 5 della Stampa. Votare questa legge con un brutto clima come quello che c'è ora nel paese sui migranti sarebbe un errore. Nell'ora della massima calura Paolo Gentiloni chiama al telefono Renzi per avvisarlo della decisione e concordare la linea sul tema più scottante dell'agenda politica. Lo sonda, come sempre avviene in momenti topici, e per dirgli che se si procedesse con la fiducia il governo potrebbe non farcela, con tutte le conseguenze del caso. Nelle sue conversazioni di queste ore, ancor di più confidandosi coi suoi, Gentiloni non nasconde di essere scosso dal brutto clima che si respira nel paese sul tema migranti. I motivi della secca frenata dunque sono tre: i numeri per la fiducia, i tempi, perché al Senato c'è un ingorgo di decreti sui vaccini, sul Sud, sulle banche venete, e a meno di far lavorare tutti a Ferragosto non ci sono incastri possibili nel calendario. Ma soprattutto è il clima, il terzo punto, questo stillicidio di episodi all'insegna dell'aggressività, con sindaci che si scagliano contro i migranti nel pieno di un'estate difficile dove è in corso un lavoro molto delicato per gestire i flussi. Insomma, in questo momento il paese è pieno di irresponsabili che cercano incidenti. Ecco perché viene tutto rinviato. Questo nel retroscena di Carlo Bertini a pagina 5 della Stampa. Anche Massimo Giannini, siamo in prima pagina di Repubblica, racconta il rinvio che maschera la resa finale. Renzi scarica la scelta sul premier. Di fronte a questa possibilità, e cioè la legge sullo ius soli che definisce Giannini un atto di civiltà, però di fronte a questo rinvio Renzi poteva fare che cosa? Poteva fare un passo avanti obbligando Gentiloni a chiedere il voto di fiducia, ma se poi il governo fosse andato sotto al Senato il segretario del PD sarebbe stato accusato di aver costruito l'incidente parlamentare per andare a elezioni anticipate. Poteva fare un passo indietro e dire lasciamo perdere lo ius soli perché non ha il consenso nella maggioranza. Qualunque fosse stata la scelta, avrebbe pagato un prezzo politico molto alto. Così ha scelto la terza ipotesi, il passo di lato. La scelta non la fa il capo del PD, ma la fa il capo del governo, cioè scaricare la scelta sul premier. Ora, ha ben donde da dire il direttore Mario Calabresi, in prima pagina del quotidiano Repubblica, che, accusando i piromani della paura, che la vicenda, o meglio il disegno di legge sullo ius soli, non ha nulla a che fare con coloro che stanno sbarcando sulle nostre coste, come propagandano i piromani della paura che da settimana incendiano gli animi. Lo ius soli non li riguarda, non verrebbe applicato a chi sbarca dai gommoni. E se anche una di quelle donne è incinta, suo figlio non diventerebbe italiano con la nuova legge perché manca il presupposto della permanenza legale della madre. Quindi, questo per onor di chiarezza va detto, non c'è alcuna relazione tra quello che sta succedendo, l'emergenza migranti che sbarcano, e la legge sullo ius soli. Però viviamo in un paese strano, cioè quello in cui, come ha detto Gentiloni nella telefonata a Renzi, il clima è questo, quello in cui un disegno di legge che non c'entra nulla con gli sbarchi viene però inevitabilmente influenzato nella sua approvazione, o meglio nel suo rinvio, dalla emergenza sbarchi. Sono vicende scollegate, ma che chiaramente in qualche modo nell'opinione pubblica vengono collegate e si condizionano l'un l'altra. E veniamo allora appunto all'altra questione. L'altra questione è quella degli sbarchi. Intanto dall'Unione Europea c'è un via libera al codice per le ONG. Come racconta Dino Martirano a pagina 5 del Corriere della Sera, l'Unione Europea dà il via libera al codice di condotta per le ONG impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare. E ora l'Italia è pronta a utilizzare questo regolamento per regolare il traffico delle navi umanitarie nei nostri porti. Secondo il diritto internazionale, gli scali italiani non possono essere certo chiusi. Ma è chiaro che adesso, con il codice condiviso in sede europea e sottoscritto dalle organizzazioni umanitarie, le autorità portuali potrebbero rivelarsi molto pignole con le ONG che dovessero rifiutare di firmare. Il testo corretto ha eliminato i vocaboli obbligo e divieto, posizionandosi su un più tenue si impegna. La nuova formulazione soddisfa comunque il ministro dell'Interno Minniti, che oggi farà il punto al Ministero. A Bruxelles il via libera al codice c'è da giovedì 13, ma è stato annunciato dal Ministero dell'Interno ieri al termine di un fine settimana molto articolato. Un fine settimana nel quale, tra l'altro, emerge sempre più questa proposta, che è stata portata avanti pubblicamente per la prima volta dai radicali, va detto, dal segretario dei radicali Riccardo Maggi, che è questa proposta di rilasciare permessi temporanei a chi vuole lasciare l'Italia. Questo perché c'è una situazione di emergenza dal punto di vista degli arrivi. Il Ministero degli Esteri sta studiando l'ipotesi, secondo Repubblica, ma il Ministero dell'Interno invece frena su questa ipotesi. Vladimiro Polchi lo racconta a pagina 6 di Repubblica: permessi umanitari temporanei per circolare liberamente nell'area Schengen. Un lascia passare per migliaia di migranti in attesa di raggiungere il nord Europa, è questo il grimaldello col quale l'Italia potrebbe tentare di scardinare il blocco delle frontiere dell'Unione Europea e decongestionare così parte del suo sistema di accoglienza. Una sorta di arma finale definita l'arma nucleare dal Times, che dice l'Italia ce li vuole mandare qui in 200.000, li vuole mandare qui nel senso in nord Europa. In tutto questo che cosa succede? Succede che in questo clima definito pesante continua la rivolta. In questo caso sono alcuni sindaci del Messinese che si ribellano per l'arrivo di 50 migranti dall'Africa davanti all'hotel Il Canguro di Sinagra. Racconta Marco Franchi a pagina 2 del Fatto Quotidiano: i sindaci che dicono difendiamo solo la nostra gente. In testa a tutti non c'è il sindaco del paese interessato, ma quello del comune confinante, Castello Umberto. Vincenzo Lionetto si chiama, un passato nell'Azione Cattolica, gioventù in lotta continua, maturità sotto le bandiere di Berlusconi. Lionetto cavalca l'onda, ma tiene a precisare che il problema non sono i migranti, ma il fatto che sono arrivati qui senza che nessuno ci abbia coinvolti. Devo difendere la mia gente. Questo è un po' lo slogan di tutti e continua questa protesta nel Messinese. Tra l'altro, a proposito di questo, il sindaco di Bari, che è anche presidente dell'ANCI, cioè dei comuni italiani, quindi presidente di tutti i sindaci, Antonio De Caro, del Partito Democratico, rilascia un'intervista al Fatto Quotidiano, pagina 3, intervistato da Carlo Tecce. Intanto dice: querelo quella signora che su Facebook, quando sono arrivati 639 migranti a Bari, ha scritto: pensa quanti soldi ti farai. Querelo la signora e utilizzerò il denaro per beneficenza. E poi fa un invito ai comuni, dice: ci sono dei comuni, per precisione 5.500, che non fanno parte del sistema SPRAR, il sistema per i richiedenti asilo e rifugiati, e quindi accolgono zero migranti. I sindaci si sono assunti responsabilità enormi, dice Antonio De Caro. Noi governiamo quello che gli altri non governano. I cittadini disorientati vengono sotto le nostre case, chiamano noi, non vanno mica dai prefetti o dai questori. Tocca a noi. E allora mi rivolgo ai sindaci: aderite al programma SPRAR e il Ministero dell'Interno dovrà rispettare la quota di 3 immigrati per 1.000 cittadini. Qui c'è un conflitto sociale incontrollabile, se qualcuno si sottrae agli impegni o guarda altrove. Fa un appello dunque ai sindaci, anche perché dice i prefetti invece, come dire, creano confusione e spediscono 1500 migranti in frazioni di 200 abitanti. È successo anche in Veneto, dice De Caro. Sono i sindaci che devono invece assumersi le responsabilità. Il tema immigrazione rimane in primo piano. Caro Mauro Meazza, buongiorno, come stai? Buongiorno Alessandro, bene, lo sai, grazie. Che mancano 10 rassegne stampa all'alba? Beh, per la tua alba, non è che poi le rassegne stampa sulla radio, Radio 24 finiscono, ci sarà. Questo è intanto che tu gozzoviglierai durante le vacanze, sempre meglio. Qualcun altro dovrà supplire alla tua assenza. Va bene, allora, essendo lunedì, sì, caro Alessandro, andrei a declamare i miei endecasillabi con un certo orgoglio e anche contro il tuo parere. Bene, diciamo. Soprattutto contro il tuo parere. È luglio, andiamo, è tempo di inviare il 7:30 che precompilato ci diedero, ma è meglio controllare se ogni sconto fu ben riportato. Siccome è suo costume, soccorre il sole che in terzo foglio alla versione odierna ti dà la lista d'ogni error che suole trovarsi e al dichiarante fa lanterna. A chi ci chiese poi parere e aita dei voucher dei lavori occasionali, offriam pagina 4, ben fornita di indicazioni in ver fondamentali. Esperti interpellammo ed ampiamente i lor saperi oggi diffondiamo in prima parte e tradizionalmente nella rubrica che anco valleghiamo. Leggi per lo tuo ben, mio caro Alino, pure l'ebook che c'è gratuitamente, a ciò che il tuo parlare mattutino sia sempre giovamento a chi ti sente. Bella stagione del calciomercato e degli allenatori dal tono enfatico. Tra poco scopriremo chi ha sfondato, chi invece si è perso in mezzo al traffico. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta Andro Milan, lo spaccapettini dell'informazione. Sicuramente oggi con i miei capelli, da belli capelli a spaccapettini. Va bene, in tutto questo, per chiudere sul tema immigrazione, c'è anche una proposta lanciata dalla Garante dell'infanzia. Ne racconta Francesca Paci a pagina 3 della stampa. Perché? Perché molti di quelli che arrivano sono minori e spesso senza genitori. E allora sull'accoglienza dei minori, una vecchia proposta di Save the Children nel quadro della legge del 2017, la legge 47 sull'accoglienza dei minori non accompagnati, ovviamente, si istituisce la figura del tutore volontario, un ruolo nuovo, assolutamente pionieri in Europa, a disposizione di qualsiasi privato cittadino che voglia farsi rappresentante legale dei meno tutelati e più fragili tra quanti sopravvivono alla traversata del Mediterraneo. Lazio, Campania, Liguria, la provincia di Bolzano sono già al lavoro, d'intesa con i rispettivi tribunali dei minorenni, hanno pubblicato l'avviso per raccogliere l'adesione degli aspiranti pseudogenitori affidatari. In realtà il termine è il 6 agosto 2017, il ruolo è appunto quello di tutori volontari dei minori non accompagnati, è quella che viene definita la genitorialità sociale. E le iscrizioni sono aperte. Chiunque cittadino volesse diventare, come dire, un genitore dal punto di vista del tutore legale di minori che sbarcano non accompagnati, lo può fare. La politica, ci sono paginate sui riposizionamenti dei vari partiti. Allora, forse l'articolo più interessante è di Ugo Magri sulla Stampa, anzi senza il forse. Pagina 5 della Stampa, si parla molto, sapete, l'inciucione, non l'inciucione, Renzi Berlusconi, Renzusconi, non è vero, Renzi scarica, o meglio Berlusconi scarica Renzi, questa è l'ultima a pagina 8 del Corriere della Sera, quindi un Berlusconi che sta staccando da Renzi per cercare di riagganciarsi bene a Salvini. Ecco, ma veniamo a Ugo Magri. In realtà c'è un'offerta segreta, secondo ben informati, di Berlusconi a Renzi. Una riforma, una legge elettorale che suona così. Attraverso i soliti canali riservati, Renzi si è visto recapitare l'ultima profferta berlusconiana, una legge elettorale di tipo proporzionale alla tedesca, ma con un premio di maggioranza per la coalizione che supera una certa soglia tra il 35 e il 40%. La particolarità di questa legge elettorale è questa. Verrebbe espressamente stabilito che diventa premier il leader del partito più votato nell'ambito della coalizione vincente, o meglio, diventa candidato premier, poi l'incarico lo dà il Presidente della Repubblica, ma diciamo, in altre parole, se il PD conquistasse il premio di maggioranza alleandosi con la sua sinistra, chi lo guida, cioè Renzi, tornerebbe a Palazzo Chigi senza domandare il permesso a D'Alema o Bersani. Ovviamente Berlusconi fa questa offerta non frutto di generosità, ma perché? Perché lui stesso nel centrodestra pensa di vincere, portare Forza Italia oltre il 30% e dunque diventare il primo partito e dunque diventare nella sua coalizione automaticamente il candidato premier. Questa è l'ultima offerta segreta di Berlusconi a Renzi. È la riforma anti-Bersani, viene definita così, perché appunto candidato premier diventa automaticamente il segretario del partito che vince all'interno della coalizione e prende più voti. Staremo a vedere se c'è questa offerta oppure no. In tutto questo Berlusconi è alle prese con le ferie politiche, come racconta Tommaso Labate, perché quando ci sono le estati prima delle elezioni succede sempre che Villa Certosa viene presa d'assalto da tutti coloro che bussano per essere candidati in lista. E il leader di Forza Italia l'estate di Villa Certosa pronto l'assalto di chi cerca un seggio. Questo è il racconto di Tommaso Labate sul Corriere della Sera. C'è anche tanto di foto a tutta pagina, o meglio a mezza pagina, della torta a 5 piani, ognuno dei piani agghindato con uno dei grandi classici di Walt Disney, la torta per il compleanno di Francesca Pascale. Io l'ho messa su Twitter, direi che è la notizia del giorno, è la prima, il primo tweet di oggi, di questa mattina alle 5.30, l'ho dedicato alla foto della torta. Torta da 5 piani, uno dedicato alla Bella e la Bestia, alla Spada nella Roccia, alla Carica del 101, Peter Pan, e sotto la scritta «Se puoi sognarlo, puoi farlo». Auguri a Francesca Pascale per questa torta sobria, direi, di compleanno. In tutto questo vi segnalo il sondaggio del lunedì ogni settimana di Ilvo Diamanti, sociologo su Repubblica. E questa è una brutta botta per i nostri giovani. Nelle parole dei giovani non c'è posto per la speranza. È un'analisi delle parole che sono legate anche dei sentimenti e come i giovani reagiscano a queste parole. Sappiate che la parola speranza, che è proiettata nel futuro da quasi 2 persone su 3 nella nostra popolazione, invece tra i giovanissimi, cioè tra la fascia 15-24 anni, solo il 57% proietta la parola speranza nel futuro. Tra i giovani adulti, tra i 25 e 34 anni, solo il 41% proietta la parola speranza nel futuro. Insomma, la nostra gioventù ha poca speranza. Tanto più nella transizione verso l'età adulta, più che in avanti, pare scivolare indietro verso il passato prossimo, scrive Ilvo Diamanti. Per questo i giovani non credono molto nella ripresa, altra parola. I giovani adulti ancor di meno, più che a riprendere, pensano a resistere, perché sono disillusi. Secondo loro il merito, altra parola del sondaggio, conta poco nel lavoro e in generale nella vita. Oggi e tanto più domani. Per questo di fronte all'Italia paiono disillusi, anche se non delusi, ma più disillusi. Comunque, leggete Ilvo Diamanti, il sondaggio, nelle parole dei giovani non c'è posto per la speranza sul quotidiano La Repubblica. Siamo alla fine, quasi, eccolo qui, l'articolo più inutile sui giornali. Siamo alla carta costa, siamo alle 2 pagine del giorno di Giovanni Rossi dedicate alla social politic, alla webcrazia. cioè, diciamo che parli lingue strane, al fatto che per i leader politici il selfie e le foto vengano prima del partito. Eccolo qua, webcrazia, l'importanza della foto, la foto di Salvini in discoteca, la foto della bandana arancione del sindaco De Magistris, la foto di Renzi in bicicletta, la foto di Gentiloni con la Merkel, l'importanza delle foto. Ma chi se ne frega!